Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica, benvenuti a Magazine 24, rubrica dedicata alla lettura delle riviste, riviste italiane, riviste straniere. Cerchiamo argomenti spesso in comune in questo programma e non è difficile davvero trovarne uno in comune davvero trasversale a tutte le testate italiane e straniere, sono i mondiali di calcio. Da venerdì prossimo, come penso oramai sappiate tutti, cominciano i mondiali in Sudafrica. Della questione si occupa anche l'Economist. Perché l'Economist? Perché l'Economist dà un taglio, un trattamento di questo tema un po' differente, perché appunto si sforza anche di descrivere le condizioni di vita, le condizioni economiche della popolazione che vive in Sudafrica, appunto in questo paese che si aspetta molto dai mondiali. Tra l'altro, prima di leggere queste indicazioni che vengono dall'Economist, su un'altra rivista che è Newsweek, un'altra rivista quindi straniera, ho trovato questo dato, questi tre dati in fila che segnalano quanto le televisioni via via pagano in più a ogni mondiale per la trasmissione dell'evento. Quando si sono giocati i mondiali del Giappone e Corea del Sud era stato pagato 1 miliardo, era il 2002, quando si sono giocati in Germania, ricordo particolarmente felice per noi italiani, appunto i mondiali in Germania, la spesa era stata di 1 miliardo e 300 milioni, i dati sono in dollari, quindi vanno corretti un po' al ribasso per quanto riguarda l'euro. Quando invece si giocheranno i mondiali del Sudafrica, la stima sulla spesa dei broadcaster, dei produttori televisivi, è attorno ai 2 miliardi. Quindi la via via trasmettere il calcio, avere i diritti per trasmettere il calcio costa sempre di più. I mondiali sono naturalmente un'occasione commerciale, economica importantissima, specialmente se leggiamo qua e là dall'Economist qual è lo stato della nazione che li ospita. Dice l'Economist: lo sport interessa parecchio al Sudafrica. Nel suo discorso alla nazione il presidente Jacob Zuma ha descritto il 2010 come l'anno più importante per il nostro paese dal 1994, cioè da quando il paese è diventato un paese democratico. Per chi viene da fuori, il fatto di ospitare i campionati del mondo di calcio può sembrare un momento non così epocale rispetto invece a quello che significa per il paese che arriva appunto a 16 anni dalle prime elezioni interamente democratiche che hanno portato appunto a un governo a maggioranza nera e questo appuntamento è importante nonostante la squadra di casa calcisticamente parlando non abbia grandi speranze di andare avanti. Sicuramente la scuola sudafricana non è tra le prime scuole calcistiche al mondo, questo non è un mistero per nessuno. Scrive però molto bene l'Economist qual è la situazione reale del paese. Dice: la realtà in Sudafrica non è quella di un paese in via di sviluppo con uno stipendio pro capite di portata media. Si ha un prodotto interno lordo che assegnerebbe a ogni sudafricano circa 10.000 dollari all'anno, il che fa già un quarto del dato americano. Però in realtà la media, scrive l'Economist, nasconde delle disparità molto molto forti. E, ad esempio nel corso dell'apartheid, come sapete, appunto la segregazione razziale che vietava alle persone di pelle nera qualsiasi partecipazione alla vita pubblica, nonché incarichi particolarmente importanti, diceva sotto l'apartheid i bianchi erano portati a credere che vivevano in una parte del mondo occidentale soltanto un po' spostata. Da quando però il paese si è avviato alla piena democrazia, la realtà è venuta un po' più chiaramente alla ribalta e quindi ci si è resi conto di vivere, riprendo sempre dall'Economist, in un paese dai forti contrasti, molto forti. Una cartina che spiega molto bene quali sono le differenze da regione a regione del Sudafrica fa vedere che mentre nella zona di Pretoria Johannesburg, nella piccola zona intorno a Pretoria Johannesburg, si ha un reddito all'anno per persona superiore ai 6.000 dollari, parliamo quindi di un po' più di 5.000 euro circa, in altre zone il reddito non arriva neanche a 3.000 dollari l'anno. E leggo sempre dall'Economist: il Sudafrica è una terra di contrasti, ha una ricchezza favolosa di minerali, ha il 90% delle riserve di platino conosciute nel mondo, ha l'80% del manganese, ha il 70% del cromo, il 40% dell'oro e depositi immensi anche per quanto riguarda il carbone, ma c'è ancora il 43% della popolazione sudafricana che vive con meno di 2 dollari al giorno. E infatti la cartina di cui vi dicevo mostra molto chiaramente come ci siano delle sacche, anche non piccolissime, in cui lo stipendio, la capacità di guadagno annua pro capite non arriva ai 3.000 o ai 3.500 dollari, quindi effettivamente molto poco per quanto riguarda una nazione in via di sviluppo. Questo testimonia quanto siano importanti per il Sudafrica, proprio come nazione, i mondiali, perché abbiano investito così tanto, stiano investendo così tanto. Da venerdì sapremo se questa operazione è stata un successo e potrà aiutare appunto a uno sviluppo più diffuso, più razionale, in qualche modo un benessere più diffuso, la nazione sudafricana. Il tema dei mondiali, naturalmente, vi dicevo, è su tutte le riviste di questa settimana. Credo di non averne trovata alcuna che non abbia, se non una guida ai programmi, una segnalazione, un trattamento qualsiasi di questo evento di portata mondiale. E Donna Moderna ha affidato a Marina D'Incerti, che è caporedattore appunto a Donna Moderna, un bel editoriale in cui i mondiali di calcio vengono affrontati dal punto di vista femminile, perché purtroppo forse molte donne dovranno subire questo momento di grande esposizione di calcio in TV e magari non saranno così contente. Allora, proprio di questo si occupa Marina D'Incerti, scrive: mi arrendo. Il calcio oggi è una cosa da donne. Appena passata l'esaltazione per la vittoria dell'Inter in Champions, ecco la fibrillazione per i mondiali. Dalle signore, dal parrucchiere, alle colleghe in redazione sono tutte prese. Io alzo un sopracciglio, scrive D'Incerti, e resto perplessa. Sono convinta che le femmine si interessino al calcio solo per compiacere i maschi. Questo è l'esordio del suo editoriale. Potrei scommettere che per le tifose l'amore per il pallone nasce solo per amore di un marito, di un fidanzato, un figlio, un fratello, un padre, un compagno di classe. Niente di male, però. Se mi sbaglio, se avete una storia di passione calcistica DOC, anzi DOF, cioè a denominazione d'origine femminile, scrivetecela. Io, da parte mia, non potrei giurare che mio papà avesse una squadra del cuore, mio marito finalmente ha smesso di rinfacciarmi che 15 anni fa non andavo a vederlo giocare tutte le domeniche, in realtà ci andavo, altro che se ci andavo, adesso preferisce la bici, pensa al calcio, ben meno delle 5 ore a cui, secondo un sondaggio, l'italiano medio si dedica settimanalmente. In conclusione, dal mi considero felicemente esentata e me ne approfitto. Quando c'è una partita in TV, protesto e mi lamento come una moglie anni 50, quando il calcio non era una cosa da donne. Con i mondiali, scrive sempre Marina D'Incerti, sarà difficile estraniarsi, ma credetemi, solo a pensarci mi viene già da sbuffare. Qui l'editoriale cambia un po' verso, perché Marina D'Incerti racconta di avere rivisto in televisione la partita Italia-Brasile del 1982, penso che molti di voi all'ascolto la ricordino, mitica partita in cui riuscimmo a imporci sul Brasile appunto con una tripletta di Paolo Rossi. Dice: è stata la classica Madeleine di Proust, il dolcetto che fa ricordare un incontro che a mente fredda avrei negato di aver visto, mi era in realtà familiare. Era familiare, quindi qua si passa al lato più nostalgico. Nota anche la Marina D'Incerti, in modo molto pacato, una considerazione in realtà molto tecnica, cioè che i calciatori di una volta erano molto più magri, non avevano, scrive, niente a che fare con i nerboruti giocatori di oggi, tutti scatti, spintoni e cadute da stuntman. E lo stadio, dice, in confronto alle coreografie da Kiddich di Harry Potter che si preparano in Sudafrica, lo stadio di Italia-Brasile dell'82 era un oratorio. Vedo Paolo Rossi esultare per un gol alzando semplicemente le braccia, anziché in inscenare una danza maori con messaggio alle telecamere e mi si aprono definitivamente il cuore e il neurone. E qui si passa appunto alla parte più nostalgica del suo editoriale. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Stavamo parlando di mondiali, credo sarà impossibile parlare d'altro in questi giorni e per lungo tempo. Divertente il contributo che abbiamo tratto da Donna Moderna, il calcio visto dalle donne, ma le donne, si chiede appunto Marina D'Incerti, amano veramente il calcio, lo fanno soltanto per compiacere noi uomini, per avere qualcosa, un argomento insomma da condividere con noi? Chi lo sa, restiamo un po' in questo dubbio. Intanto una cosa molto pratica, tra i molti settimanali che segnalano i mondiali di calcio al via da venerdì prossimo, Famiglia Cristiana dedica un dossier, Sogno di una coppa di mezza estate, i mondiali visti da uno che li ha vinti, Dino Zoff. C'è una lunga intervista a Dino Zoff in questo dossier aperto da Giampaolo Mezzano, l'intervista è stata realizzata da Elisa Chiari. Vi rimando a Famiglia Cristiana, ha collaborato a questo dossier anche Maurizio De Paoli, anche il collega Maurizio De Paoli. I pronostici, avvisa in copertina Famiglia Cristiana, danno in pole position Argentina, Brasile, Inghilterra e Spagna, pochi puntano sull'Italia di Lippi che però è il campione uscente. Spesso gli azzurri hanno dato il meglio di sé proprio quando non partivano favoriti. Sognare dunque non è proibito, questo l'auspicio di Famiglia Cristiana. L'albo d'oro delle vittorie, per chi non lo sapesse, Famiglia Cristiana ricorda nelle sue pagine tutta una serie di curiosità anche numeriche: ha vinto appunto 5 volte il titolo mondiale il Brasile, 4 volte l'ha vinto l'Italia, poi segue la Germania con 3, l'Argentina e l'Uruguay 2 volte, l'Inghilterra e la Francia un mondiale a testa. Questi mondiali vedranno 32 squadre impegnate, 64 partite, 10 stadi, 420 milioni di dollari è il montepremi, ci sono 31 milioni di dollari di premio per la nazionale che vincerà il mondiale. Quali sono poi i giocatori che hanno segnato di più? Ultima curiosità che traggo sempre da Famiglia Cristiana: Ronaldo 15 gol, con 14 gol Müller della Germania, Ronaldo scusate ovviamente del Brasile, con 13 gol Fontaine della Francia e con 12 Pelé ancora del Brasile. Tutte queste informazioni e molte altre in realtà le trovate su Famiglia Cristiana di questa settimana. Ci sarà un altro evento televisivo in realtà che comincia proprio oggi, un piccolo evento televisivo rispetto al rilievo e all'eco che avranno i mondiali, ma a qualcuno, forse a molti, in realtà farà piacere, perché proprio questa sera ritorna il Dottor House. Il Dottor House è un telefilm che ha tutta una sua schiera di appassionati, tra l'altro in qualcuna delle classifiche che ogni tanto segnalano i telefilm preferiti dagli spettatori, il Dottor House si è piazzato per diverse volte al primo posto, quando gli è andata male stava al secondo o al terzo, non ricordo bene, ma insomma è comunque un seguito molto forte. Allora, da Sorrisi e Canzoni, Antonio Mustara ci segnala che dal 6 giugno, quindi da oggi, Italia 1 trasmetterà gli ultimi 7 episodi della 6ª stagione del Dottor House. Questo sarà ogni domenica in prima serata e andrà avanti fino a metà luglio. La collocazione estiva non è una novità per House, l'attore è Hugh Laurie, il medico più amato e discusso della TV. Infatti il suo debutto su Italia 1 risale proprio al mese di luglio del 2005. Però è la prima volta che noi italiani non dobbiamo aspettare l'autunno per assistere al finale di stagione. Ci sono poi 3 grandi sorprese preparate dagli autori, dagli sceneggiatori di questo telefilm di successo per chiudere in bellezza il 6° anno. La prima è una nota più tecnica: lo stesso interprete, l'attore che interpreta il Dottor House, sarà il regista di un episodio, l'episodio che andrà in onda il 20 giugno. L'attore, di nazionalità inglese, aveva detto infatti che si dispiaceva aver sempre occupato solo il posto del passeggero, continuando a lamentarsi con chi guidava, ha voluto dirigere lui stesso. E in questo episodio si rivedrà un Jennifer Morrison nel ruolo di Cameron, che è un personaggio cancellato dagli autori all'inizio della stagione. Vero colpo di scena però è nell'intensa sequenza finale della stagione, non so neanche se poi siete molto appassionati a rivelarvelo o no, ma in fondo se siete appassionati forse lo temevate già da soli, perché a un certo punto la dottoressa Lisa Cuddy, il capo di House praticamente nel telefilm, esce allo scoperto, rivelerà finalmente ad House di essere innamorata di lui. E qui poi come le cose vadano a finire non ve lo voglio dire, se lo volete sapere lo leggete su Sorrisi e Canzoni TV, oppure naturalmente lo potrete vedere in televisione. Restiamo nel mondo dello spettacolo, perché su Vanity Fair c'è una intervista curiosa e divertente allo stesso tempo, annunciata anche in copertina. In copertina si legge: Nicole Kidman vi racconta la sua filosofia in 6 minuti. L'intervista firmata da Silvia Nocini in realtà è molto curiosa, perché racconta di questo trattamento un po' particolare, per cui la collega Silvia Nocini si è recata fino a Hong Kong per un appuntamento di 10 minuti con Nicole Kidman. Nicole Kidman era a Hong Kong per una serata di beneficenza organizzata quindi per raccogliere fondi a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le donne. Ha concesso ben 6 minuti e 20 secondi anzi a Silvia Nocini per una intervista. Ora dell'intervista vi posso leggere qualche estratto. Vi posso dire che Nicole Kidman non è che si sia poi così sbilanciata nelle sue risposte, mi pare abbia dato delle risposte abbastanza normali, insomma non particolarmente memorabili, però qua e là dice appunto che non si lascia avvicinare molto dalla gente, che preferisce stare a casa con la sua famiglia, non frequenta grandi feste. In questo dice: credo di assomigliare molto a voi italiani nel mettere la famiglia, la casa prima di tutto al primo posto. Vieni a casa mia, cucino per te, non è una cosa da poco, dice sempre la Kidman, far entrare qualcuno in casa propria è un gesto di calore e di amore. I party, andare per locali, è tutta un'altra storia, un altro tipo di vita. Molto molto gustoso il fatto che ogni domanda sia scandita dal minuto, dal cronometraggio di questa intervista, perché appunto tutto questo è stato tratto in soli 6 minuti e 20 secondi trascorsi al cospetto di Nicole Kidman, quindi ci sono dei corsivi che segnalano minuto 1 i convenevoli, lungo silenzio dopo una domanda della Nucini, e intanto scrive lei scatta il minuto numero 2, Nicole Kidman non risponde, fa un mugolio e qui si arriva quasi allo scoccare del minuto numero 3, siamo abbondantemente nel minuto 4 e dopodiché si arriva fatalmente alla fine della intervista che viene bruscamente interrotta proprio mentre Silvia Nucini sta cercando di fare un'ultima domanda, ma viene congedata dalla publicist della Kidman, che dice grazie e arrivederci, e con questo appunto guarda il registratore digitale, segna una cifra minuscola, si può volare quindi fino a Hong Kong per parlare con Nicole Kidman per 6 minuti e 20 secondi. Certo, c'è di peggio nella vita, direte voi, ma come esperienza lavorativa è decisamente bizzarra. E con questa segnalazione di questa intervista a Nicole Kidman, intervista ripeto molto molto breve, molto molto intensa, si conclude il nostro appuntamento con Magazine 24. Io vi do appuntamento a sabato prossimo sempre alle 8:30. Ringrazio Carmelo Lauricella anche questa mattina in regia per me, e grazie naturalmente anche a Margherita Ina e a Vittoria Mussini che hanno preparato insieme a me questo programma. Vi ricordo come sempre potete riascoltare questa puntata, potete riascoltare tutti i programmi di Radio 24, ottenere informazioni sulla nostra radio andando sul nostro sito www.radio24.it. A risentirci sabato prossimo.